Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it. Obiettivo Salute Weekend di Nicoletta Carbone. Buongiorno e benvenuti all'ultima puntata di Obiettivo Salute Weekend che va in vacanza. E alle vacanze è dedicata la copertina di questa settimana che abbiamo affidato al professor Massimo Andreoni, ordinario di malattie infettive all'Università Tor Vergata di Roma e direttore scientifico della Società Italiana Malattie Infettive Tropicali, che è in linea con noi. Professor Andreoni, buongiorno. Buongiorno a lei e a chi ci ascolta. Allora, professore, raccomandazioni e consigli per andare in vacanza al tempo del coronavirus. Ma sicuramente innanzitutto riposiamoci, ne abbiamo bisogno tutti quanti, però manteniamo tutti gli accorgimenti indispensabili che abbiamo imparato a conoscere, cioè mantenere il distanziamento, dobbiamo stare lontani almeno 1,5 metri dalle persone con le quali noi parliamo. Indossare la mascherina è importante e fondamentale, soprattutto quando siamo in locali chiusi. Tenere la mascherina e il distanziamento sono le misure che ci permettono di non infettarci e di non trasmettere il virus. E poi laviamoci frequentemente le mani. Anche questo può essere di aiuto a cercare di evitare la trasmissione del virus. Se poi ci vogliamo rilassare, possiamo leggere un bel libro. Covid-19, lo possiamo dire perché tutti i diritti sono per la protezione civile, quindi non è certamente il fare, diciamo, reclam inutile, è un libro che ci insegna, che io ho scritto insieme al professor Nardone, che ci insegna un po' di notizie sul Covid-19, ma soltanto se ci vogliamo un po' rilassare sotto l'ombrellone o sdraiati su un bel prato. Professor Andreoni, ci dica una chicca di questo libro, così, tanto per stuzzicare un po' la voglia di leggere, di informarsi. Ma tutte le notizie false, le fake news che sono state tirate fuori sul Covid vengono riesaminate una per una e smascherate, quindi questo può essere utile per capire cos'è che si legge, cos'è che si ascolta, quali sono le notizie giuste oppure quelle sbagliate. Ad esempio? Ad esempio, come è nato questo virus, da dove proviene, come si è generata questa pandemia. Se ne sono sentite tante di storie false e, diciamo, il libro cerca di fare chiarezza anche su questo. Professor Andreoni, grazie per essere stato con noi. Buone vacanze se le merita anche lei e buona estate. Grazie e buone vacanze a tutti quanti. Dalla pelle al cuore. Adesso sto davanti a te. So che mi perdonerai. Mi devi perdonare. Allora, buona estate, buone vacanze e buon sole. Facciamo scorta di buon umore e di energia quest'anno, come anticipava il professor Andreoni, ne abbiamo tutti bisogno. Il sole, tra l'altro, può essere un nostro grande alleato. I benefici che può regalarci, ne abbiamo parlato in diverse occasioni, sono tanti, a patto che impariamo ad esporci con le giuste attenzioni e con le protezioni adeguate. Ne parliamo oggi con il dottor Pier Giorgio Malagoli. Buongiorno, dottore, bentornato. Buongiorno, buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti. Responsabile dell'unità operativa di dermatologia e centro PsoCare al Policlinico San Donato di Milano. Dottor Malagoli, molte delle malattie della pelle, penso alla dermatite atopica, alla dermatite seborroica, ad alcune forme di eczemi, alla psoriasi, migliorano con il sole e anche con i bagni di mare. Ci vuole spiegare le ragioni di questo effetto, mi passi il termine, terapeutico dei raggi solari e aggiungo anch'io delle vacanze? Certo. Allora, intanto la sua premessa è fondamentale. Il sole fa bene se lo prendiamo con attenzione e con le dovute protezioni. Questo è un elemento cardine per poter sfruttarne i benefici senza invece ereditarne gli eventuali danni. Riguardo alle patologie che lei ha elencato, è vero, sì, il sole ha un'azione sicuramente benefica, migliorativa e, come diceva correttamente lei, soprattutto se associato all'acqua del mare. Il sole perché migliora le patologie croniche infiammatorie della pelle? Le migliora perché ha un'azione diretta antinfiammatoria, tanto per cominciare, quindi questo su tutte le forme infiammatorie croniche ha sicuramente un beneficio per i nostri pazienti. L'altro aspetto importante è che il sole invece regola anche la riproduzione cellulare dei cheratinociti, che sono le cellule del nostro strato più esterno della pelle, l'epidermide, che in quasi tutte le malattie infiammatorie come gli eczemi o la psoriasi che lei ha citato hanno una regolazione esagerata e si riproducono molto velocemente. Il sole ne regola questa riproduzione facendo ritornare ai livelli normali e quindi spariscono le squame che normalmente sono presenti in queste forme di patologie, pensiamo solamente alla psoriasi. Ecco perché al sole tutte queste malattie infiammatorie croniche cutanee hanno sicuramente un netto miglioramento. Dottor Malagoli, a proposito di psoriasi, la psoriasi è una malattia della pelle, ma non è solo una malattia della pelle, sembra un bisticcio di parole, ci aiuta a capire bene? Sì, Nicoletta, è proprio così. La psoriasi in realtà è una sindrome chiamata anche appunto malattia psoriasica. All'interno di questo contenitore di sindrome noi troviamo delle lesioni a livello cutaneo tipiche della psoriasi a placche come la conosciamo noi, con lesioni infiammatorie, squamose sulla superficie corporea. Troviamo però anche dolori articolari, quindi danni, danneggiamenti, erosione a livello delle articolazioni. E in questo, diciamo, aspetto rientra il quadro di artrite psoriatica, che è un'altra faccia della malattia psoriasica. Esistono poi delle localizzazioni palmoplantari che molto spesso possono confondersi con degli eczemi da contatto, ma rientrano in questa sindrome di malattia psoriasica. E non ultimo, anche a livello degli occhi c'è una patologia infiammatoria che è l'uveite, che viene oggi ritenuta assolutamente mossa proprio dalla malattia psoriasica. Quindi, come vede, c'è un quadro molto vario all'interno di questo termine. Insomma, riprendendo il claim di una campagna di sensibilizzazione, la psoriasi è più di quello che si vede. Una campagna, tra l'altro, a cui hanno aderito due società scientifiche, la SIDMAST, la Società Italiana di Dermatologia Medica, Chirurgica Estetica e delle Malattie Sessualmente Trasmesse, e la DOI, che è l'Associazione Dermatologi Ospedalieri, insieme a due associazioni di pazienti, la DIPSO, l'Associazione per la Difesa degli Psoriasici, e l'ANAP, l'Associazione Nazionale degli Amici per la Pelle. Nonostante la psoriasi si conosca e se ne parli da tempo, noi abbiamo dedicato tante trasmissioni alla psoriasi, su questa malattia pesano ancora dei luoghi comuni, delle leggende metropolitane, ma noi oggi le smascheriamo. Insieme a noi il dottor Andrea Conti, dermatologo presso la struttura complessa di dermatologia all'azienda ospedaliera universitaria Policlinico di Modena. Buongiorno dottor Conti, benvenuto. Buongiorno a voi, grazie mille per l'invito. Allora, dottor Conti, ci aiuti lei, perché ci sono, dicevamo, tanti luoghi comuni. Cosa troviamo in cima alla lista dei luoghi comuni delle leggende metropolitane che riguardano la psoriasi? Effettivamente si tratta di vere e proprie leggende metropolitane. Uno di questi, ad esempio, può essere il rischio di contagiosità, cioè si pensa che sia una malattia contagiosa. Per questo molti pazienti sono stigmatizzati, sono allontanati, un po' emarginati anche dalla vita sociale. In realtà la psoriasi è una malattia geneticamente determinata, ovvero abbiamo dei geni che sui cromosomi dei soggetti malati che poi predispongono a sviluppare la malattia, che poi si scatena in relazione a quelli che possono essere degli eventi scatenanti, che sono appunto delle infezioni, l'utilizzo di alcuni tipi di farmaci, degli eventi particolarmente stressanti, luttuosi, malattie, eccetera, che possono poi fare comparire, esordire proprio la malattia, generalmente in fasce di età che vanno nelle forme giovanili attorno ai 20 anni e attorno ai 40-50 nelle forme dell'adulto. Quindi in realtà non abbiamo una contagiosità, ma abbiamo una predisposizione familiare, tant'è vero che molti malati psoriasici hanno generalmente dei genitori o degli antenati che hanno avuto forme più o meno gravi o anche forme minime di psoriasi. Dottor Conti, viene anche detta la malattia dei sani, ma di questo parliamo subito dopo le informazioni sul traffico, per sapere che cosa succede sulle strade e le autostrade, insieme al dottor Conti. Resta con noi naturalmente il dottor Malagoli. Vi aspetto a tra poco. Logica, spazio, tempo, Modul Block, l'evoluzione del magazzino. Vi presenta. Obiettivo Salute Weekend. E questo io l'ho capito sulla mia pelle, sulla mia pelle, senza di te. Siamo tornati, stiamo parlando della psoriasi prendendo spunto da una campagna, la psoriasi è più di quello che si vede, che ci aiuta a capire che non è solo una malattia della pelle ma una malattia, come ci ha ben raccontato il dottor Malagoli, una malattia sistemica che interessa più organi e apparati. Non va trascurata, ne parliamo nel corso di questa trasmissione, ma prima vogliamo smascherare i luoghi comuni, le leggende metropolitane. Dottor Conti, si pensa che sia contagiosa e lei ha demolito, ha frantumato questo luogo comune, ma alcuni dicono sia la malattia dei sani. Non è la malattia dei sani. In realtà gli studi epidemiologici che abbiamo a disposizione hanno evidenziato che, ad esempio, un paziente su tre soffre di artrite psoriasica e più o meno anche 4 pazienti su 10 sono in sovrappeso e soffrono di malattie cardiache e metaboliche, a volte anche gravi come il diabete oppure degli altri tipi di problematiche come malattie del fegato, che sono estremamente rappresentanti in questo tipo di pazienti. Procediamo, c'è chi pensa che sia una malattia psicosomatica, c'è chi sostiene che dipenda da quello che si mangia. Dottor Conti, dov'è la verità? Dunque, la verità è un po' nel mezzo, nel senso che la malattia, come ha già spiegato prima il dottor Malagoli, tende a peggiorare la qualità di vita dei pazienti e questo instaura poi un circolo vizioso che peggiora poi tutto, anche il quadro clinico, quindi il paziente non si sente a proprio agio e tutto tende a degenerare. Per quanto riguarda il discorso alimentare, direi che la dieta, o meglio l'educazione alimentare, migliora le condizioni di malattia, migliora la malattia stessa e le risposte alle cure che abbiamo a disposizione. Quindi chi segue un regime alimentare ottimo, come ad esempio una dieta mediterranea fatta bene, ha solo che dei benefici per ottenere dei miglioramenti del quadro clinico. Dottor Conti, chiudiamo con l'ultimo luogo comune. Quale vuole portare alla nostra attenzione? Capita spesso che alcuni pazienti sono rassegnati. Molti dicono: ho la psoriasi e me la tengo. In realtà non è così, nel senso che da oltre 10 anni abbiamo a disposizione delle terapie innovative, molto sicure e che possono fare regredire completamente la malattia e soprattutto mantenerla in remissione stabile nel tempo. Faccio riferimento ai farmaci biologici o ai nuovi farmaci che sono disponibili sia per iniezioni sottocutanee sia in compresse e che permettono un controllo totale della malattia in completa sicurezza. Dottor Conti, grazie per essere stato con noi e le auguro buone vacanze. Grazie a voi e buone vacanze a voi e a tutti i telespettatori. Grazie. Dottor Malagoli, a proposito di vacanze, abbiamo detto che ci avete spiegato anche la ragione, con l'estate, bagni al mare, un'esposizione adeguatamente protetta, la psoriasi può migliorare, ma attenzione, ecco, questo può essere un aspetto da considerare con attenzione, perché molte persone vedono le lesioni migliorare e sospendono le terapie. Sì, è vero. Diciamo che le terapie di cui ha parlato il dottor Conti sono terapie che permettono un controllo della malattia purché vengano assunte con continuità. Queste sono delle terapie con dei farmaci che bloccano una determinata sostanza che scatena il processo infiammatorio della psoriasi. Se smettiamo di assumere le terapie, la sostanza si riproduce e la malattia torna. Ecco perché anche in funzione dell'estate, dell'esposizione solare, le terapie devono essere continuate. Magari si può fare, come si può dire, una modulazione della terapia, modificarne i tempi di somministrazione o le dosi, ma mai sospenderle fidandosi troppo della forza benefica dell'esposizione al sole. E questa è una buona occasione, e lo sottolineiamo spesso, di parlare con il proprio dermatologo. Diventa veramente un alleato, un compagno nell'affrontare questa malattia, il percorso, ecco, che questa malattia inevitabilmente costringe il paziente a fare. E soprattutto lo diciamo anche dopo che a causa dell'emergenza Covid i controlli, le visite sono state rimandate. Dottor Malagoli, lei dal suo osservatorio che cosa ci può riferire? Allora, che questo è stato un grosso problema, soprattutto perché queste terapie, appunto essendo continuative, hanno bisogno comunque di essere proseguite senza interruzione. C'è da dire questo però, che in questo terribile periodo della pandemia ci ha lasciato in eredità, sembra paradossale, anche degli aspetti positivi. E uno di questi, che noi abbiamo verificato, è la possibilità di gestire in remoto il nostro paziente, con il quale comunicare, sì, rassicurarlo, e devo dire che l'empatia che si è creata con questi pazienti è stata un bagaglio professionale veramente arricchente, e questo non lo dobbiamo perdere. Attraverso, appunto, lei fa riferimento alle televisita. Televisite, ma anche contatti diretti, perché come diceva lei Nicoletta, se il paziente è in contatto con il proprio dermatologo, lo è a 360 gradi, certo, attraverso mail e quindi attraverso contatti con l'ospedale. E quindi l'idea di non aver lasciato questi pazienti in balia degli eventi, ma di aver potuto garantire alla quasi totalità di loro una prosecuzione della terapia, è stata una grandissima vittoria che noi abbiamo ottenuto in questo periodo. Dottor Malagoli, nella puntata di oggi vogliamo fare chiarezza e invitare le persone che soffrono di psoriasi di non solamente parlarne con il proprio dermatologo, di avere la certezza che è una malattia che si può curare e si può curare anche bene, ma soprattutto vogliamo porre l'attenzione su dei sintomi che devono essere conosciuti per evitare di perdere il controllo della malattia. È importante sapere a che cosa prestare attenzione, perché come lei ci ha detto, la malattia psoriasica può colpire diverse aree del corpo, la pelle, le unghie, i palmi delle mani, palmi dei piedi, il cuoio capelluto, ma lei ci ha parlato anche della possibilità che questa malattia porti all'artrite psoriasica, e quindi qua si vede anche il coinvolgimento di più figure professionali. Dottor Malagoli, ci impresti, come dico spesso, il suo occhio clinico. Una persona che soffre di psoriasi, anche di una piccola chiazzetta di psoriasi, a che cosa deve prestare attenzione? Allora, è molto importante che il paziente che soffre di psoriasi, a prescindere dalla gravità della malattia, perché spesso c'è un collegamento inverso, presti molta attenzione a dei segni cosiddetti subclinici, che possono essere piccoli dolori articolari, gonfiori delle dita che magari durano un poco tempo ma che comunque sono ricorrenti, dolore ai talloni, mal di schiena, una rigidità soprattutto al mattino che poi migliora durante la giornata. Questi sono piccoli segni di infiammazione a livello delle articolazioni, e questa tipologia di pazienti la intercettiamo ovviamente noi dermatologi, perché sono pazienti che vengono negli ambulatori perché hanno un problema di pelle. L'importanza di intercettare questi sintomi precoci di artrite e di condividere con il reumatologo poi la diagnosi e la terapia di questi pazienti è fondamentale, perché le terapie che noi oggi abbiamo a disposizione impediscono la progressione del danno articolare, che è la cosa più invalidante per la vita di un paziente che soffre di artrite psoriasica, e gli permettono di condurre una vita nella assoluta normalità tanto prima viene fatta diagnosi e terapia. Ecco, quindi la diagnosi precoce è importante. Ma dottor Malagoli, c'è un profilo di pazienti che è più a rischio di artrite psoriasica? Diciamo che uno dei segni predittivi di artrite psoriasica è l'onicopatia, quindi il danneggiamento ungueale in pazienti che soffrono di psoriasi. Si ritiene che questo danneggiamento ungueale venga dalla matrice, che sia collegata quindi all'entesi, cioè quindi alle prime proprio strutture articolari delle mani, e questo è sicuramente un profilo di paziente che va indagato con grandissima attenzione. Perché, io lo ripeto, il claim di questa campagna, perché la psoriasi è più di quello che si vede, riassume benissimo un'indicazione che è molto utile e importante per il paziente. Dottor Malagoli, abbiamo parlato di vacanze, abbiamo parlato di estate e di bagni di mare. Quali sono i consigli che lei si sente di offrire alle amiche e agli amici che ci stanno ascoltando per godere del sole solo il meglio, quindi per prendere tutto il buono del sole e quindi migliorare la pelle dalle lesioni, ma prolungare il più possibile questi effetti, dottore? Allora, sicuramente è quella che viene chiamata elioterapia, cioè la terapia del sole, come abbiamo visto, ha degli effetti assolutamente benefici importanti su tutte le patologie infiammatorie croniche, e la psoriasi sicuramente è una di quelle patologie che più beneficia dall'esposizione al sole, soprattutto se associato all'acqua del mare. Il consiglio che diamo sempre ai nostri pazienti che sono in terapia con farmaci sistemici o anche solo con creme è comunque di proteggere sempre la loro pelle in modo da poter usufruire dei vantaggi che il sole ci dà come antinfiammatorio e come riduttore degli spessimenti cutanei, senza però aprire un altro fronte che è il problema dei tumori cutanei che vengono proprio da una protezione non corretta quando ci esponiamo al sole. Protezione che, ricordo, deve essere correlata al fototipo della pelle di ciascuno di noi. I pazienti più chiari quindi non possono avere una protezione bassa, ma richiedono una protezione molto molto alta. Dottor Malagoli, abbiamo aperto la puntata di Obiettivo Salute Weekend, che da questo sabato va in vacanza, con le raccomandazioni per una buona estate ai tempi del coronavirus con il professor Massimo Andreoni. A lei chiederei di chiudere questa puntata anche con qualche altro suggerimento, partendo dalla psoriasi e più di quello che si vede, come a fare un riassunto dei punti chiave della nostra chiacchierata di oggi, quelli che, come si dice, ci portiamo a casa nella nostra quotidianità. Dottor Malagoli, che cosa aggiungerebbe? Allora, che la psoriasi è molto più di quello che si vede, che l'importanza delle associazioni dei pazienti nel informare i pazienti affetti da psoriasi sull'intercettamento dei sintomi precoci è veramente molto molto importante. Un altro messaggio da portare a casa è che oggi la psoriasi si può curare, si cura molto bene a prescindere da quale sia la forma o la gravità della psoriasi, perché ci sono oggi delle terapie in grado di rispondere a tutte le esigenze dei nostri pazienti, e rivolgetevi al vostro dermatologo o ai centri che sono presenti su tutto il territorio nazionale che gestiscono queste terapie avanzate proprio per la cura delle forme più gravi. Ma ripeto, il messaggio importante: godetevi l'estate, e se non ci avete ancora pensato o siete sfiduciati perché non avete avuto grandi risultati, fate una riflessione sul fatto che noi vi possiamo aiutare. Dottor Malagoli, grazie per essere stato con noi, le auguro un buon weekend, una buona estate e spero di risentirla presto. Grazie mille a voi e un saluto a tutti, arrivederci. Ringrazio Filippo Aureggi, che è in regia alla parte tecnica, moderatamente sorridente. Laura Vanossi in redazione e in assistenza. Vi do appuntamento domani alle 12 per una puntata della Bufala in Tavola. Buon sabato da Nicoletta. Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it.